fare tutta la... Resto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontare. Lune 43 minuti del mattino, questo è sabato 20 ottobre del 2018 e siete sempre in collegamento con Resto Radio Convento. Ormai lo sapete, il nostro è uno spazio libero per poter far chiacchierare, far salutare, insomma far dire qualcosa ai nostri festeggiati e a chiunque lo desiderasse, e ci piace anche prendere alcuni momenti per sottolineare l'importanza di una festa, di un evento e di un momento che è sicuramente da ricordare. E questo è uno di questi casi, perché abbiamo con noi una delle tante diciottenni che è venuta a festeggiare qui questa sera. Benvenuta Elisa. Ciao Elisa, benvenuta. Allora, di dove sei? Sono di Manerbio. Manerbio, ok. Che ricordiamo, per i non locali, non è da confondersi con Manerba. No. Che io ancora oggi lo confondo, quindi cerchiamo di essere didascalici anche dal punto di vista geografico. E un po' l'ho anticipato, quindi penso si sia capito. Cosa festeggi questa sera? Non so quando, ma la festa è stasera. Il mio 18esimo. Il tuo 18esimo compleanno, quando è stato o quando sarà? Martedì 16 ottobre. Martedì 16, sì. Quindi 3-4 giorni fa. Oh, allora, domanda scontata, lo so, come si sta? Uguale prima. Sì, tanto uguale dicono, prima, dicono, cambia tutti niente. Così, dicono tutti così. Tra l'altro la nostra Elisa, dovete sapere che è una abbastanza, come dire, agguerrita e intraprendente, perché ha un vestito trasparentissimo e che non sappiamo se aveva finito i soldi per pagarlo e quindi gli mancano dei pezzi, o non sappiamo se il sarto aveva un po' di un po' di stranezze e si è dimenticato di cucirne un pezzo. No, però a parte gli scherzi, è un vestito molto molto elegante e molto bello. Grazie. Però confermi che in queste serate, sia la festeggiata ma soprattutto il gruppo che l'accompagna, c'è questa tendenza a vestirsi bene, insomma a mettersi un po' in tiro? Sì, sì. Come mai? La sentite un po' questa cosa? O è casuale, nemmeno ci si accorda e uno sa che deve essere, insomma, adatto? Beh, in generale ai diciottesimi ci si veste tutti eleganti, perché comunque sono dei compleanni importanti sì, che si ricorderanno per sempre. Quindi non c'è una sorta di dress code, cioè ragazzi mi raccomando vestitevi bene, una cosa che viene naturale, sì, fare. Sì, viene spontanea. Oh, bene, bene, mi fa piacere. Da quanto organizzi questa festa? O non so se magari è una festa sorpresa, te l'hanno organizzata? Da agosto la da sto agosto. Organizzando, sì. Cavolo, quanti siete? Siamo in 17 stasera. Parecchi, parecchi, uno per ogni anno della tua vita. Sì. No. Manca la mia amica che purtroppo non è riuscita a venire. Beh, sarebbe stato il ciclo perfetto per arrivare, sì, a 18. E chi ti sei portata qui? Cioè amici o qualche parente? Non lo so, dici un po'. Sì, ho tutti i miei compagni di classe, i miei amici più stretti. Recenti? Sì, sì. Sono stati in classe con me per tutto il liceo. Ok. C'è qua anche Paola che è in classe con me dall'asilo. Ah, però! Sempre stata grande, in classe insieme, sì. Grande! E tenete duro ancora, sì? Sì. Brave, bravissime, bravissime. Avete intenzione di continuare anche finito il liceo o ancora non ne avete parlato? Perché sceglieremo delle università diverse, suppongo. Ah, e quello lo sapete già. Sì. Ma c'è ancora quella cosa, perché chiaramente loro sono in quinta, appena iniziata, corretto? Sì, sì? Perché è ottobre, quindi sì, appena iniziata. C'è ancora quella cosa che i professori consigliano l'indirizzo dell'università? O se io almeno alla mia epoca c'era, che i professori consigliamo per l'alunna Elisa frequentare questo, no? Sì, verso dicembre-gennaio faranno. Cominciano a instradarti. Sì, un'attività di orientamento. Mm-hmm. Quindi per aiutarci nella scelta, perché comunque sarà una scelta importante. Eh beh sì. Poi diciamo che nulla togliere alla vostra età, a 18 anni non si è ancora ben coscienti di quello che si vuol fare, comunque delle possibilità che offre il mondo, quindi il rischio di sbagliare è alto. E poi questo andrebbe a complicare un po' il futuro, ma insomma pensateci bene. Adesso cosa stai facendo? Già me lo dicevi prima, ma... Sì, faccio liceo scientifico. Liceo scientifico. E intendo iscrivermi all'università di medicina. Ah, medicina. Sì. Quindi pronta al percorso lungo. Sì. Per diventare? Spero. Ok, immagino medico, ok, chiaro, ma hai già anche un'idea in testa? Ginecologa ostetrice. Ah, ginecologa ostetrice. Sì. Quindi hai già quella strada in mente. Sì, per ora sì. Ti piacciono i bambini? Sì. Sì? Ho una sorellina di 3 anni, quindi... Ah, però... Avete 15 anni di differenza, sì. Quindi cavolo, è praticamente una mini mamma, sei. Sì. Una mini mamma. È bello, sì. Però avere così tanta differenza d'età. o la senti pesante? No, beh, è come se fosse una seconda mamma per lei. Infatti, sì, tanti mi scambiano per la sua mamma, infatti. Allora, addirittura? Sì. Diciamo che si capisce che non è che hai proprio l'età da mamma. Eh beh, però oggigiorno un po' tutto è possibile, quindi. Ah, eh beh, no, beh, sì, è vero anche quello. Però diciamo che sarebbe parecchio strano. E come fai a conciliare la differenza d'età? Cioè, quali attività riuscite a fare insieme? Quali cose riuscite a fare insieme con 15 anni di differenza? Soprattutto il gioco. Ah. Sì, gioco molto con lei. Beh, devi tornare molto indietro, cioè nel senso devi regredire allo stato. Diciamo che divento un suo giocattolo. Esatto. Ecco, sì, esatto. Sono sottomessa completamente. Vabbè, come sempre, i bambini occupano, soprattutto piccoli, occupano tempo e come dire, impegno a genitori, sport. A tutti, diventano veramente il centro del mondo e della giornata, come è bello e giusto che sia. Quindi comunque riuscite a giocare insieme. Parla già un po', riesci a. Sì, troppo. Troppo. Vabbè, quindi comunque potete anche, insomma, comunicare. Sì, sì, cantiamo. Ah sì, cantate. Bello, bello, mi piace. Poi si vede da come ne parli che insomma, le vuoi bene, ci tieni molto. Vuoi intanto presentarci i tuoi due compagni che sono qui? Ti va? Sono con me Paola e Mattia. Allora, quindi Paola abbiamo capito che è quella dall'elementare, dall'asilo. Ok, poi abbiamo Mattia. Mattia, sì, è in classe con me dal liceo, quindi da 5 anni. Ah, ok. Una classe di secchioni, cavolo, sì. Tutti scientifici. Sì. Che poi è un problema al liceo scientifico, perché quella scelta che rischia di non portarti da nessuna parte, poi, perché il linguistico, vabbè, sai quella strada lì, il classico più o meno l'insegnamento, e lo scientifico poi si aprono altre mille porte. Sì, è per questo che ho scelto appunto lo scientifico, perché mi dava una base per qualsiasi università. Ah, per poter decidere dopo. Ok, vai, volete fare un saluto all'Elisa, visto che vi siete buttate all'interno dei nostri studi? Vorremmo augurare un buon compleanno a Elisa e tutto il meglio. Bello, giusto? Tutto il meglio della sua vita e sicuramente spero di starle accanto ancora in questi anni. Bello. Bello, bello, anche se devo sottolineare che è difficile stare vicino a Paola in questa serata, perché ha un vestito tutto pieno di paillette sberluccicanti e luccicose, per cui riflette anche un po', no, scherzo chiaramente, era una battuta, e è bello comunque riuscire cercare il meglio di riuscire a mantenere questi tipi di rapporti che durano da così tanto e che è molto rischioso perdere. Quindi mi raccomando, tenete duro. E intanto io mi permetto di fare un grosso in bocca al lupo alla nostra Elisa, anche se la vedo già bella, con idee belle chiare in testa, bella decisa, bella convinta. E ti auguro di realizzare tutte queste idee che hai in testa. Grazie a voi per essere stati con noi. Tu vuoi fare un saluto in chiusura? Ringrazio tutti i miei amici per essere stati qui per la mia festa. E niente, vi voglio bene. Bello, bello, chiudiamo così. Grazie. Con amore e con affetto. Grazie mille, ragazzi. Ciao. Grazie.